a famiglie di lavoratori e di lavoratrici povere, sempre più una realtà presente nella nostra città come in tantissime altre città. La nostra scelta è quella di non girarci dall'altra parte o non assecondare, diciamo, situazioni precarie, ma di fare un grande progetto di emergenza e di transizione abitativa con un intervento dei servizi sociali che faranno un lavoro sociale di prossimità subito nelle prossime settimane per ulteriormente conoscere quelle famiglie che già sono state oggetto di incontri da parte del pronto intervento sociale per costruire dei percorsi individualizzati sempre nell'ottica dell'emancipazione di quelle famiglie, non solo dell'assistenza ai bisogni immediati. Quindi questa è la prospettiva in cui ci muoviamo, con un grande progetto che ha coinvolto tutta la Giunta, il Servizio Sociale, l'Abitare, i lavori pubblici, quindi un progetto strutturale che ha una prospettiva di 30 anni, che non lavora solo sulla contingenza, ma appunto per affrontare in maniera seria un problema assolutamente serio e all'ordine del giorno.